qui dove il mare luscica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si scarisce la voce e ricomincia il canto. Ti voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che si urla il sangue d'inte vene, sai. Vede la luce in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e le bianche scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire di una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte, quando negli occhi ragazza nero, occhi verdi come il mare, qui all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Ti voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che si ogni il sangue d'in te bene sai. Potenza della lirica, dove ogni trama è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Così diventò tutto piccolo, anche la notte là in America. Ti volti a vedere la tua vita come la cia di una elica. La potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Così divento tutto piccolo, anche la notte là in America. Ti volti a vedere la tua vita come la sia di una lirica.